Europa 24. 13 richieste agli Stati Uniti per rinforzare i diritti dei cittadini europei per la protezione dei loro dati, ma anche un appello ai governi europei perché sblocchino la revisione entro aprile della direttiva europea sulla data protection, rimasta ferma nel vertice di ottobre. Sono due delle azioni intraprese dalla Commissione europea e annunciate dalla vicepresidente Viviane Reding per ristabilire la fiducia dopo lo scandalo Datagate. Sullo stesso tema interviene il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmström. Non ci sono prove che ci siano state violazioni da parte degli Stati Uniti del programma per la tracciatura delle transazioni finanziarie dei terroristi, come invece sostiene la talpa del Datagate Edward Snowden. No, it's not business as usual. We have, after the revelations by Snowden, engaged in a very, very tough dialogue with the Americans. No, non è la solita storia. Dopo le rivelazioni di Snowden, abbiamo avuto riguardo alle intercettazioni un faccia a faccia molto duro e franco con gli Stati Uniti. Ma non ci sono prove che ci siano state violazioni da parte degli Stati Uniti del programma per il rintraccio delle transazioni finanziarie dei terroristi. Non si sospendono programmi sulla base di due articoli di giornale. Abbiamo avuto ore e ore di contatti con la Casa Bianca, compresa una visita il 18 novembre, in cui abbiamo avuto tutte le rassicurazioni al riguardo e abbiamo così chiuso le consultazioni formali. Non abbiamo trovato alcuna prova che l'America abbia violato l'accordo, quindi perché dovremmo sospenderlo? La partita fra Unione Europea ed Ucraina per la firma di un accordo di associazione è ancora aperta, ha detto il ministro degli esteri lituano Linkevičius nel giorno di inizio del summit di Vilnius in Lituania, appunto. Il summit del partenariato orientale è l'evento principale e finale del semestre di presidenza lituana dell'Unione Europea. Doveva essere un vertice quello di oggi e domani a Vilnius per celebrare la presenza dell'Unione Europea al limite estremo orientale dell'Europa. La scelta dell'Ucraina di non firmare un accordo di associazione con i 28, privilegiando per ora i rapporti con la Russia, ha scombussolato i programmi e provocato divisioni tra i paesi europei. Mentre la Polonia e altri paesi orientali vogliono rintuzzare l'ambizione di Mosca a preservare la sua sfera di influenza, Germania, Francia e Italia vogliono invece proteggere il loro rapporto con la Russia. Nel contempo, a creare tensioni tra est e ovest in Europa è anche la scelta inglese di limitare l'immigrazione verso la Gran Bretagna di cittadini dell'Europa centro-orientale. Presi di mira in questo caso sono soprattutto Romania e Bulgaria. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vilnius. Intanto Yulia Tymoshenko, la leader dell'opposizione ucraina, condannata a 7 anni di reclusione in un processo che Bruxelles ritiene di matrice politica, chiede all'Unione Europea che proprio a Vilnius si firmi l'accordo di associazione e libero scambio con l'Ucraina, anche se non si trova un compromesso per la sua liberazione. In Germania accordo trovato per il governo di Grosse Koalition. L'Europa dovrà coniugare solidarietà e responsabilità, sottolinea alla cancelliera Angela Merkel. La Germania volta pagina e guarda avanti. Con precisione teutonica, la Grosse Coalizione prende il largo a 2 mesi di distanza dalle elezioni di fine settembre, così come previsto nei giorni immediatamente successivi al voto. Le basi su cui poggia il nuovo mandato sono una complicata equazione tra le richieste del socio di maggioranza, la CDU-CSU, e quello di minoranza, la SPD. I socialdemocratici incassano il salario minimo su cui hanno impostato buona parte della campagna elettorale. Sarà introdotto nel 2015 e sarà pari a 8,50 euro l'ora. Sul fronte pensionistico si è raggiunto un compromesso: innalzamento graduale fino a 67 anni per l'età pensionabile, ma con una deroga senza sanzioni per i lavoratori con 45 anni di contributi già a partire dai 63 anni. I conservatori portano a casa invece la garanzia che non ci saranno aumenti di tasse. La Grosse Coalizione si è anche impegnata a non contrarre nuovi debiti a partire dal 2015. L'impronta europeista di Angela Merkel emerge nel capitolo dedicato all'Unione. L'Europa dovrà coniugare solidarietà e responsabilità con una maggiore capacità competitiva attraverso le riforme strutturali. Il verbo di Frau Merkel tocca anche la questione debiti sovrani, porta chiusa a ogni forma di eurobond. Unica concessione alla SPD, la promessa di una concretizzazione dell'agonizzante e semidimenticato patto per la crescita da 120 miliardi, varato dal Consiglio europeo di quasi un anno e mezzo fa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è vittoria, seppur parziale, della Germania nell'accordo raggiunto fra le istituzioni europee sulle norme che limitano le emissioni di CO2 delle nuove auto. I negoziatori superiori di Europarlamento e Consiglio UE hanno concluso un'intesa che prevede l'obbligo di ridurre le emissioni delle nuove auto a 95 grammi per chilometro entro la fine del 2020 e non all'inizio del 2020 come inizialmente previsto, con misure transitorie fino al 2022. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.